l'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qui, cari radioascoltatori di Radio 24, in diretta di Studio di Milano. Torna nel nuovo palinsesto autunnale iniziato da lunedì. Piano piano tutte le trasmissioni sono tornate all'ordinaria amministrazione dei loro conduttori su Radio 24. E torna sabato, per tutti i sabati, fino alla prossima estate, alle 10 e alle 12, anche i conti della Belva con i suoi compari. Oscar Giannino, vi saluto e vi ringrazio. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio e Renato Cifarelli ci raggiungerà più tardi per telefono, come sempre. Comunque, i compari dei conti della Belva, ora adesso sinteticamente, come sempre, io vi dico di cosa parliamo oggi. È una puntata resumé per capire un pochino come la pensate voi e cosa c'è da pensare di quello che è avvenuto nel mese che abbiamo alle spalle. Poi tante novità, tanti ospiti e così via. Intanto, se volete telefonarci, vi dico schematicamente il numero di telefono è, come sapete, 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Cominciamo con il punto di Mario Seminerio su, diciamo, un po' di cherry picking, di scelta delle ciliegie di cui parlare per le cose che abbiamo alle spalle: la frenata della crescita italiana, l'andamento dell'occupazione, insomma, conoscete oramai il nostro metodo. Dopodiché, dalle 10:30 fino alle 11, facciamo una riflessione comune, visto che trae spunto dallo scambio, il carteggio che c'è stato sul Corriere della Sera tra l'ex commissario Spending Review, professor Roberto Perotti, e chi ne ha preso il posto, per così dire, ha preso il dossier in mano dopo di lui, cioè Yoram Gutgeld. E la domanda è: ma insomma, visto che oramai la spesa pubblica non si ridurrà con questo governo, ve la chiedo col massimo rispetto: siete di quelli che dicono meglio così, se si taglia la spesa meno PIL e invece adesso ci sarebbe bisogno di più spesa? Può essere che voi la pensiate così, oppure al contrario, no, abbandonare, come ha fatto il governo, questa strada significa che non ci sono risorse, se non coperte in deficit, per diminuire le imposte sul lavoro e sull'impresa. La pensate per l'ipotesi A o per l'ipotesi B? Quindi chiamateci 800 24 00 24 e diteci. Noi avremo un ospite e sentiremo però anche la voce diretta di Renzi e del ministro Padoan per consentire a tutti di riflettere in base ai fatti. Dopodiché, dalle 11 alle 11:30, dopo c'è la radio delle 11, torniamo e in un altro blocco ci poniamo la questione di uno dei termini su cui si analizza ormai la politica italiana, la politica dell'Unione Europea, un po' anche quella americana in vista delle presidenziali, perché la parola d'ordine su cui interrogarsi è populismo. Quindi cosa pensate voi di questo populismo? Che cos'è davvero per voi il populismo? La politica che vedi Trump negli Stati Uniti, ma insomma vedi in tutti i paesi europei, chi chiede cose spesso dal punto di vista reale impossibile, però molto popolari, può essere in Italia l'uscita dell'euro dopodomani da soli, può essere una concezione diversa dell'economia e della decrescita felice, eccetera eccetera, molti voti. Poi si vede a Roma, ci porremo anche il problema di quello che avviene a Roma, che quando si tratta, dopo aver vinto, di mettere le mani negli ingredienti per fare la torta, la torta non viene, per così dire. Allora, ci interrogheremo con questo, con ospiti su questo, oltre che con voi, ma con ospiti che hanno due punti di vista tedeschi, il primo quello ortodosso e invece il secondo il punto di vista di chi sostiene che sono stupidaggini accusare di populismo. Quindi avremo il segretario della Lega Lombarda con noi e quindi ci interrogheremo su questa faccenda. E diteci comunque anche per voi se populismo è semplicemente buon senso che sta sulle scatole alle elite e magari anche a noi conduttori di conti della Belva, e però è una cosa buona perché serve per dare spallate qualunque cosa ne avvenga, oppure se invece bisognerebbe essere un po' più attenti a quello che si promette rispetto a quello che poi si può fare e soprattutto alle conseguenze. Allora, cominciamo rapidamente, prima che da 3 minuti inizi la rubrica di Mario. Quali sono, una a testa, Mario e Carlo Alberto, le cose che in questo agosto più vi hanno lasciato perplessi? No, ma guarda, io ho visto tutto il contrario di tutto, poi sto seguendo con grande passione il giallo de Noantri che si sta sviluppando a Roma, quindi sono... No, una cosa che mi ha colpito abbastanza, a intervalli regolari e ricorrenti ci sono queste campagne di stampa per l'uscita dall'euro, eccetera, no? Adesso voglio dire, ognuno deve cercare di vendere i propri giornali, poi magari un giorno succederà pure, non di vendere i giornali, ma di uscire dall'euro. Però mi ha colpito che in settimana è uscita un'infografica in prima pagina di Libero che mostrava praticamente chi erano i paesi che, diciamo, crescevano di più su base annua, e tra i paesi che crescono di più c'è la Slovacchia che fa un 3,7%, e la Slovacchia è stata indicata nell'infografica di Libero come paese che non ha l'euro. Al che io ho mandato molto così umilmente un tweet al direttore responsabile Senaldi e al nume tutelare direttore editoriale Vittorio Feltri, grandissimo, che saluto, dicendo che la Slovacchia è nell'euro dal 2009 e che quindi quando si fanno le infografiche vanno fatte con la testa, non con altre parti anatomiche. Ma d'altro canto, cioè, mi rendo conto che, come dico sempre io, falliremo ma almeno divertendoci, ecco. Io invece devo dire che, viaggiando un po' per un paio di continenti, sono rimasto stupefatto di come in pochi mesi sia peggiorato il clima sul commercio internazionale, sulla collaborazione internazionale. Il TTIP che salta, l'accordo di libero scambio tra Europa e Stati Uniti, la Commissione UE che inizia una campagna fiscale di centralizzazione pelosa e secondo me poco trasparente, che non aiuta il clima degli investimenti. Un totale silenzio di ipotesi serie sul post-Brexit su come affrontarlo. Gli unici, devo dire, i giapponesi, che sono presentati al G20 con 15 pagine analitiche di tutto quello che va fatto, l'hanno consegnate alla Theresa May dicendo: o fai così o chiudiamo gli investimenti in Inghilterra. È veramente un clima pesante dal mio punto di vista. Quando poi ci sono in Italia i famosi sovranisti, esatto, della svalutazione competitiva, che in maniera paradossale dicono: siamo contrari agli scambi, al libero scambio, però vogliamo svalutare, così almeno così possiamo esportare, no? Di più. E perfetto, certo, perfetto. Con il mondo di tariffe e di commerci bloccati mi sembra la prospettiva migliore. Esatto, questi sono i libero scambisti col fondo schiena degli altri, che sono una categoria che in Italia prospera, diciamo, quotidianamente. No, il concetto è libero scambio da me a te, ma da te a me, tariffe e dazi. È come DOP e IGP da un lato, per poter conquistare mercati esteri, e però dall'altro viva il chilometro zero, così ci difendiamo da eventuali invasioni. È sempre questa la simmetria, è un mondo di asimmetrie che in Italia più che altrove hanno le loro salde radici. Diciamo. Salde radici, però quello che posso dirvi, cari compari, e teniamone conto in questa nuova stagione, è che a giudicare dalle mail e dagli sms che tutti i giorni stanno in radio, noi dal nostro pubblico riceviamo, il consenso, sia esso ragionato, sia esso di pace, quello che volete, ma il consenso che queste tesi nel nostro paese stanno raccogliendo è crescente. Certo. È trasversale, perché a pensarla così sono ex elettori della destra, ex elettori della sinistra, attuali elettori della destra, della sinistra, dei 5 Stelle, della Lega, eccetera, eccetera. Noi non possiamo, per senso di responsabilità a questi microfoni, in questa stagione, non tenere conto che queste soluzioni seducono sempre di più milioni di italiani. Milioni, oramai mi azzardo a dire milioni e milioni. Ecco, quindi teniamone conto, perché... No, ma siamo qua per questo, diciamo. Anzi, loro tendono a liquidare chi la pensa come noi con disprezzo assoluto, ormai come se fossimo rottami della storia. Noi dovremo tentare di ragionare con chi la pensa così. Io vi dico sinteticissimamente, che aggiungo quello che avete detto voi, che rimango a grattarmi la barba su quello che succede sulle banche italiane, perché in questo mese abbiamo avuto la conferma che questa riapertura e richiusura per cedere le good banks delle quattro banche di novembre comunque finirà male rispetto alla stima iniziale. Abbiamo avuto la conferma Popolare di Vicenza che Atlante perderà soldi tra Vicenza e Verona, dove è tanti, e anche questa è una brutta cosa. E la terza conferma è questo sviluppo che è in corso da due giorni, tre giorni, ma che era stato preparato le ultime due settimane con Viola che va a casa. Vedremo chi sarà tra lunedì e martedì al massimo il nuovo amministratore delegato, ma quello che è evidente è che le famose banche di questo consorzio, che era stato presentato a Palazzo Chigi come l'ennesima soluzione definitiva di Siena, verso la quale nove mesi prima il Presidente del Consiglio invitava a comprare il titolo perché era già risanata anche nove mesi prima, e beh, quella soluzione soluzione a molti problemi. Non credo che sarà così facile, anzi io non credo che avverrà la soluzione sugli NPL, sull'aumento di capitale prima dell'anno come Palazzo Chigi vorrebbe. Ci sarà il referendum di mezzo, è proprio questo, come si vede dai report di grandi banche straniere, che preoccupa non poco e che alla radice anche di questo ennesimo cambio a Siena. Ricordiamo a tutti che l'azionista di maggioranza di Siena chi è? Mario Seminario? Non è Mario Seminario, ma è il tesoro non è Mario il tesoro Seminario. Della Repubblica, che con il 4% ricordiamolo così sì, sanno sì. Le cose, ma vedrete che ce ne occuperemo molto di tutte queste faccende e torniamo tra un minuto. Conti della Belva. Eccoci qui tornati con la rubrica che noi teniamo solido punto di riferimento, uno dei pilastri della nostra compagnia, Mario Seminario, sugli andamenti, i dati, gli aggiornamenti della crisi. E però abbiamo cambiato la sigletta, vediamo questa qua, questa vi piace di più. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. No, perché siccome ci accusano e ti accusano, Mario, di essere un po' gufo, abbiamo tentato di auto-ironizzare. E perché no? Perché no? Comunque voi segnatevelo, che non si sa mai, no? Esatto. Ecco, vi mandiamo un tweet, se volete. È un'occasione per sviluppare la vostra spiritualità prima della fine, diciamo. Allora, da che partiamo? Come effetto sintesi, perché non potremmo occuparci di tanto, facciamo due o tre esempi. Guarda, il dato centrale del periodo estivo è questa crescita zero del PIL del secondo trimestre. Più che altro la cosa che mi ha colpito è stato alla vigilia della revisione, quindi della stima finale, il fatto che il Tesoro, Renzi eccetera avessero lanciato questa cosa. No, sarà più di zero perché c'è stata la revisione della serie storica. Poi alla fine è uscito zero il trimestrale e più 0,8 il tendenziale, perché Istat ha rivisto a rialzo il PIL del terzo trimestre 2015. Ora, ma scusate, Renzi non era quello che diceva che a lui non interessavano gli zero virgola? Cioè, adesso siamo praticamente alla canna del gas della disperazione per cercare di dire, va bene, il tendenziale fa più 0,8, siamo ancora in time, stiamo andando, stiamo riuscendo a crescere e comunque 3 anni fa perdeva il 2 il PIL. Cioè, queste cose sono abbastanza ridicole. Poi io volevo segnalare, portare alla vostra attenzione questo interessante filone polemico che è stato sviluppato, polemico diciamo, argomentativo, sviluppato dal grande professor Marco Fortis, il quale si è preso la briga di espungere dai dati del PIL italiano, tedesco e francese il contributo alla crescita della spesa pubblica, cioè l'ha presa in un vacuum, no? L'ha tolta ed è giunto alla conclusione che al netto dei contributi di spesa pubblica, attenzione, parliamo di spesa corrente, perché quella degli investimenti non è nella lettera G delle famose identità di contabilità nazionale, è nella I. Praticamente l'Italia cresce quanto la Germania. Ora, io questo sfogliare la margherita, ma soprattutto il carciofo, diciamo, non so in che altro modo definirlo. La spesa pubblica ha una cosa che si chiama efficacia. La maledizione della spesa pubblica italiana nella storia e nei decenni, perché questo è importante se siamo arrivati a questo punto, è quella di una spesa pubblica di qualità pessima e infima. È peggiorata, perché hai notato che la quota di investimenti si è praticamente ridotta a un rivolo. Esatto. Che è un tema comunque importante, lo vedremo poi dopo con il grande dibattito che si è creato in questi giorni su tagliato sì, tagliato no, spostato. Avete visto, hai riempito i giornali. Però volevo chiederti un commento invece sulle componenti del PIL, perché sì, le dinamiche sono interessanti anche al loro interno. Noi verso l'estero non è che abbiamo tutta questa spinta, no? E volevo un po' commentare, volevo farti commentare questo elemento, perché ci torna col tema anche poi del populismo. Questo trimestre il contributo dell'export netto è stato positivo. È stato positivo anche per la Germania, dopo credo 2 o 3 trimestri in cui il commercio estero netto sottraeva crescita. Certo. Per cui sta andando abbastanza bene. Però come possiamo commentare uno zero? Appunto. Quando sui consumi però, c'è zero, spesa pubblica però, c'è però, zero. Ecco, da questo punto di vista la cosa proprio preoccupante, poiché noi sappiamo che di fronte a noi, per via della congiuntura internazionale che ha motivi solidi per non cambiare presto, per via delle stime sempre più a ribasso, commercio mondiale, questa settimana il campanello d'allarme di una delle più grandi compagnie di shipping che ha per centinaia di anni farmi, è sì. un altro segnale terrificante sul commercio sì, mondiale. Sì. Noi sappiamo che se c'era una cosa positiva in questi 0, del 2015 della ripresa italiana, sia pure in decalage dal primo al quarto trimestre del 2015, è stato un decalage continuo, era che il contributo estero per queste ragioni non era col segno più, ma invece c'era un primo segnale, insomma, stimabile, abbastanza rilevante, di ripresa della domanda interna, consumi e qualche cosa sugli investimenti. E esattamente questo è il dato, secondo me, più preoccupante. Sì, della che si è spento. Perché si è spento. Esatto. E quindi vuol dire che di fronte a noi questo dovrebbe essere il grande motivo di riflessione per il governo sulla legge di stabilità, le priorità su cui concentrare le cose. Il quadro del governo in realtà è cambiato, perché loro dicevano noi abbiamo riavviato la domanda interna. Esatto, e invece pare che si sia spenta nuovamente, questo è il problema. Poi per quanto riguarda, diciamo, un altro dato che è uscito ieri, che è relativo alle comunicazioni obbligatorie pubblicate dal Ministero del Lavoro per il secondo trimestre, questo è un dato estremamente interessante, no? Come forse avrete visto, a parte il mini crollo delle attivazioni nette, che è figlio, diciamo, della forte riduzione dei sussidi di decontribuzione. Esatto, però c'è questo dato che io avevo già segnalato in passato, cioè calano le attivazioni, ma calano anche le cessazioni, quindi c'è una sorta di stasi nel mercato del lavoro che va interpretata. Ma soprattutto il dato del secondo trimestre delle comunicazioni obbligatorie è interessante, perché per quanto riguarda le cessazioni aumentano quelle promosse dal datore di lavoro. Imprese. Esatto, che diciamo in particolare aumentano i licenziamenti, più 7,4% i licenziamenti rispetto allo stesso trimestre del 2015. Aumentano purtroppo, diciamo, le risoluzioni di rapporto di lavoro indotte, quelle indotte da fallimenti, e però i lavoratori non escono spontaneamente, come invece ci si aspetterebbe in un mercato del lavoro dinamico, dove ci sono opportunità di trovare nuovi impieghi meglio remunerati e più interessanti. Quindi in questo contesto ci si aspetterebbe un aumento delle dimissioni volontarie, cioè delle separazioni volontarie, che in realtà sono crollate. E questo è un dato molto interessante, ma anche preoccupante. Tra l'altro ieri su Twitter mi faceva notare il professor Michele Tiraboschi, che non ha bisogno di presentazioni, che questo crollo, diciamo, delle cessazioni e questa gelata anche delle dimissioni volontarie, lui lo mette anche in relazione al fatto che bisogna uscire da un contesto di articolo 18 ed entrare in un contesto senza l'articolo 18. Ora, io, per come il professor Tiraboschi ha segnalato, riporto, e questo è uno spunto di riflessione su cui per torneremo tutti, più avanti, che bisognerà, infatti, nelle prossime trasmissioni. Bisognerà analizzare, esatto, quantitativamente, perché ricordo invece che il professor Ichino diceva: non è un problema se l'articolo 18 viene tolto solo sui nuovi contratti, perché il fisiologico turnover dei cambi di lavoro da qui a qualche anno farà sì che tutta la popolazione lavorativa sarà privata dell'articolo 18. Quindi sono due visioni a confronto, due visioni antitetiche che sono abbastanza interessanti. Ma soprattutto, ultimo punto, e poi direi che per quanto mi riguarda avrei anche terminato, c'è questo crollo delle cessazioni per pensionamento che riguarda sia gli uomini ma soprattutto le donne nel confronto con lo scorso anno, perché da quest'anno il regime pensionistico per le donne è diventato più restrittivo con l'equiparazione agli uomini, e quindi c'è una sorta di gelata nel numero delle cessazioni per pensionamento. Cosa vuol dire questo? Che noi leggeremo questi dati di mancato pensionamento che andranno a gonfiare il numero di occupati della coorte 55-64 anni. Dopodiché qualcuno dal governo dirà che è un trionfo perché cresce l'occupazione e si gonfia in quella coorte anagrafica. Per cui io vorrei dire solo una cosa, un appello agli ascoltatori: attenti alle illusioni ottiche, perché sono quello che di solito frega soprattutto noi italiani. Visto che hai aggiunto anche il dato sull'occupazione, fammi fare un flash sui prestiti del sistema bancario che sono usciti l'altro ieri e che ci dimostrano ancora che mentre crescono pochino quelli alle famiglie, decrescono ancora quelli alle imprese, che ricordo sull'anno hanno fatto meno 2,8%, laddove invece quelli alle famiglie sono cresciuti del 2,1%. Effetto complessivo, decrescita degli impieghi bancari dello 0,7% sull'anno, anche se l'ultimo mese gli spostamenti sono dello 0,2%. Non è un segnale positivo? Quando ti chiedevo la composizione, ancora una volta gli investimenti non decollano, no. Non c'è un flusso chiaro di credito alle imprese. Sul tema del commercio internazionale, l'Economist si ricordava che il costo di un container spedito da Shanghai a Genova si è dimezzato in 18 mesi, che significa sostanzialmente che le previsioni anche non sono. Questo, in questo senso, dicevo che i segnali dinamici ci stanno dicendo che non possiamo purtroppo far conto su un recupero nel resto dell'anno trainato dalla domanda estera, che non ci sono le premesse per farlo. Allora, tre segnali da questo primo set di dati. Sintesi estrema, che non piace al governo, ma insomma i dati dicono questo. Sintesi estrema del bilancio oggi del Jobs Act: senza decontribuzioni, come vedete, il mercato del lavoro azzera la sua grande spinta dell'anno scorso. Vedremo se il governo a questo punto li leva definitivamente invece che farli solo calare nella legge di stabilità. Ancora sul Jobs Act, è appurato che l'effetto di occupazione maggiore è per la corte di età più elevata. Questo conferma la tragicità del problema, purtroppo, della bassissima partecipazione che resta dei giovani al mercato del lavoro. E la domanda diventa: e in questo dobbiamo mettere soldi pubblici per i prepensionamenti nella prossima legge di stabilità invece che sulle politiche attive del lavoro per i giovani? E ce ne occuperemo. Terza cosa, questo riguarda invece banche, ripresa, investimenti. Guardate che in questa estate, e si è visto nelle dichiarazioni di Mario Draghi due giorni fa, si è, per così dire, resa più evidente la crisi, la torsione crescente a cui sta andando il QE, non solo in Europa, ma in Italia. Allora, c'è un problema evidente in un mondo in cui siamo passati da meno di 12 trilioni di dollari di asset detenuti dalle banche centrali a 26 trilioni. Praticamente questa giunta, 26 trilioni significa il PIL, per capirci, dell'America e del Giappone, e ne avanza, ecco, per avere un ordine di grandezza di che cosa hanno in pancia oramai le banche centrali, e delle torsioni crescenti che sui mercati sono rappresentate dal fatto che metà di quei 25 trilioni sono bond, più di 8 di quei 12 sono titoli dei debiti pubblici che hanno rendimento negativo, e stanno iniziando ad arrivare oramai anche masse crescenti, molto rilevanti in termini di miliardi di dollari di bond, grandi corporation che hanno rendimenti negativi pure quelli, e tutta roba che distorce in maniera assoluta il mercato, che complica la possibilità di avere curve di rendimento per calcolare gli investimenti per i privati nei prossimi anni, appiattisce l'orizzonte della crescita. Cioè l'esito è l'opposto di quello che si immaginava. Nel frattempo, come vedete, l'inflazione non arriva al 2%. Questo è un enorme problema. Vedremo, molti dicono: bene, bisogna fare ancora di più, buttiamoli con l'elicottero e diamoli nelle tasche della gente. Io credo che bisogna immaginare invece un periodo nel quale si torna a politiche monetarie più ortodosse. Naturalmente questo avrebbe degli impatti sui debiti pubblici, eccetera, eccetera, tutti da vedere. Comunque ce ne occuperemo nell'arco delle nostre puntate, ma adesso c'è un regalo per Mario Seminero che viene da un nostro ascoltatore. Ci ha cucinato una cosa che mi ha fatto morire dalle risate. È un po', per così dire, hard, però siamo in fascia protetta, senza esagerare. Dai, facciamo l'ascoltare. La mia missione è scopare con tutte, questo o quello, per me pari sono. Allora, in Seminator, il nostro ascoltatore dice: bisogna chiamarlo in Seminator. Naturalmente, io so che questo creerà problemi nel rapporto personale tra Mario e la sua fidanzata, ma no, è uno scherzo, Mario. Ecco, sta ridendo Mario, caro ascoltatore, quindi ti abbiamo accontentato. In Seminator diventerà. Ma come ti passa per la testa? Ma in Seminator, ma guarda un po'. Ok, ci torniamo tra un minuto. Senti, in Seminator? La mia missione è scopare con tutte, questo o quello, per me pari sono. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui tornati con i compagni dei Conti da Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Allora, tentiamo di capire chi avesse ragione e chi torto sul bilancio della Spending Review. Scrive Roberto Perotti al Corriere della Sera dopo mesi di silenzio, avendo abbandonato la responsabilità a cui aveva cooperato gratis per la Spending Review, se n'è andato deluso e dice in buona sostanza, in 10 punti, io richiamo solo la sintesi. L'abbattimento della spesa è fallito, il governo ha cambiato strada perché sì avrà pure disposto tagli per 25 miliardi, ma poi ha disposto nuova spesa aggiuntiva per l'equivalente, anzi un po' di più, e quindi il perimetro della spesa non si riduce il perimetro, non si fanno scelte di priorità sulla qualità della spesa e dove indirizzare le risorse. A questo punto auguri. Ma no, io non servo. Gli scrive Göran Gutkeld dicendo non è in grado Gutkeld di dire che è falsa l'accusa dei 25 miliardi che sono spariti di riduzione, perché quello è così, però vanta tutti i provvedimenti in cui gli interventi sono stati energici, sfotte personalmente però dicendo vabbè sei un intellettuale frustrato perché non ti abbiamo dato retta, doppio scambio poi di puntualizzazione. Allora, noi partiamo in questa nostra riflessione dalle parole dirette del Presidente del Consiglio e del Ministro Padoan, perché la domanda per capire chi ha ragione tra Perotti che dice avevate una promessa di ridurre al netto la spesa e non l'avete mantenuta, e Gutkeld che dice no, noi stiamo ristrutturando la spesa, quello che leviamo di qua aggiungiamo di là, bisognerebbe capire il governo che cosa davvero aveva annunciato di voler fare. Allora sentiamo intanto il Presidente del Consiglio. La riorganizzazione della pubblica amministrazione non nasce dalla Spending Review, non è un problema di soldi. Ecco, cioè Renzi dice, sembra dare ragione a Gutkeld, questo era l'annuncio della presentazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione, se non che poche ore dopo, l'indomani, il ministro dell'economia in questi termini invece parla dello stesso provvedimento. Sentiamo Padoan. E infine la revisione della spesa che, come diceva il Presidente del Consiglio, ovviamente serve a fare risparmi permanenti, ma serve a guardare ai meccanismi di spesa in un modo diverso. Anche qui si possono ottenere nel medio periodo, non dimentichiamoci che la Spending Review non è soltanto qualcosa di quest'anno, è qualcosa che ha un orizzonte temporale di 3 anni, che metterà la pubblica amministrazione, la gestione della cosa pubblica su un sentiero diverso. Ecco, come vedete Padoan invece dice no, la riforma della PA si incardina nella visione triennale di riduzione stabile della spesa, ed è questo che ci consente di fare delle scelte, ma nel quadro di una riduzione stabile. Cambia la PA con la riforma della PA incardinata nella diminuzione della spesa. E invece Renzi aveva detto no, questa cosa non c'entra niente. Fin dall'inizio pare a me che le cose fossero un po' confuse. Ecco, quindi in teoria si potrebbe dire che hanno ragione sia Gutkeld che Perotti, peccato che non è possibile la cosa. E a questo punto tentiamo di capire come la pensa invece una osservatrice terza, un economista, una saggista, autrice tra gli altri del libro Il caso Germania, Veronica De Romanis. Grazie di essere con noi. Buongiorno. Allora, Veronica, secondo te aveva all'inizio ragione Renzi o Padoan? Era una confusione voluta o casuale? Beh, io posso dire quello che è avvenuto quello che ha detto Renzi, quello che sta avvenendo è quello che ha detto Renzi, nel senso che se andiamo per ordine di questi 25 miliardi di tagli, negli ultimi 10 anni non è mai successo un taglio simile e non è successo neanche in questi 2 anni di governo Renzi. Nel 2015 la spesa ha continuato ad aumentare, come del resto negli anni precedenti, di circa 890 milioni. E qui è interessante guardare la composizione della spesa, cioè in che modo aumenta questa spesa, perché poi se andiamo a guardare aumenta molto poco nella parte più produttiva, che sarebbe la spesa in conto capitale, ovvero gli investimenti. Nella legge di stabilità 2016 questa, diciamo, caratteristica di penalizzare la spesa in conto capitale continua, perché lì sì è prevista una lieve riduzione della spesa di circa 360 milioni, ma la maggior parte delle riduzioni vanno a toccare appunto la spesa in conto capitale, circa 320 milioni. Quindi la spesa non è stata tagliata, e quando è stata tagliata di poco è stato a danno della parte della spesa più produttiva. Quindi quindi questo è il primo punto. Dopodiché la spesa è stata reinvestita, ecco, questo è quello che è successo, nessun taglio, ma tagliato da una parte e reinvestito dall'altra, però è stato reinvestito in spesa corrente, in bonus, in contribuzione, in queste misure una tantum e temporanee che, come stiamo vedendo, non stanno avendo un grande impatto sul PIL, perché i dati dell'ultimo trimestre ci confermano che il PIL italiano è fermo. Io propendo per l'effetto voluto, certo, queste cose non sono casuali. Del resto, nell'intervista che rende stamattina al Messaggero il ministro Padoan, a un certo punto fa riferimento a ciò che Mario Seminario diceva all'inizio della trasmissione a proposito degli effetti della finanza pubblica sugli andamenti della crescita nei diversi paesi europei ricordati dal professor Marco Fortis, perché Padoan alla domanda che gli viene fatta in vista della prossima legge di stabilità sulla copertura, le spese, il deficit aggiuntivo che l'Italia che chiede in Europa, a cui si aggiunge poi le proposte che facciamo per il dopo terremoto e così via, risponde a un certo punto: inoltre ricordo, sue parole testuali, inoltre ricordo che il taglio della spesa pubblica in Italia ha contribuito alla minore crescita rispetto ad altri paesi, come emerge chiaramente dalle analisi di Marco Fortis pubblicate dal vostro giornale. E quindi ex post la risposta che viene data a Veronica De Romani sul fatto che gli annunci di tagli come saldo netto di spesa pubblica non sono stati perseguiti, viene oggi confermata dal ministro Padoan dicendo: e quel po' che abbiamo fatto, cioè in realtà abbiamo contenuto la dinamica di crescita della spesa, non l'abbiamo ridotta, ci fa crescere meno degli altri. Quindi naturalmente ogni riferimento al fatto che c'è chi si può permettere spesa pubblica aggiuntiva perché ha il bilancio inattivo, ha decine di punti di PIL di debito pubblico eccetera, sparisce in questo ragionamento, perché l'idea è che se noi se potessimo spendere quello che adesso nella finanziaria di quest'anno al Parlamento tedesco hanno annunciato Schäuble eccetera eccetera, cresceremmo più di loro. Peccato che le condizioni siano diverse. Poi c'è anche, scusate se interrompo, ma c'è anche un discorso, cioè si guarda il secondo trimestre dove effettivamente la spesa corrente pubblica è stata nulla o ha fornito un contributo lievemente negativo. Meno 0,3. Però io mi sono preso la briga di andare a guardare la variazione sul tendenziale, sì. Quindi secondo trimestre 16 su secondo trimestre 15, la crescita della spesa pubblica per consumi è stata dello 0,7%, esatto. In linea con la crescita del PIL. Ora, io capisco che c'è gente che deve assolutamente giustificare tutto, le fasi lunari, le macchie solari, le onde gravitazionali, l'incidenza, a parte che comunque la spesa pubblica ha una dimensione di quantità e una di qualità. Noi è notorio che in questo paese spendiamo non troppo, perché non si spende troppo, questo lo dico da sempre, ma spendiamo malissimo. Per cui c'è un problema di riqualificazione della spesa pubblica. Restiamo su questo per un'altra domanda alla nostra ospite Veronica. Sì, però, guardi, sì. Per rispondere alla sua domanda, basta è sufficiente guardare cosa è avvenuto in Europa tra paesi che hanno tagliato e paesi che sono cresciuti, veramente molto rapidamente. L'Inghilterra negli ultimi 5 anni ha fatto un taglio di 5 punti e cresce al 2,3. La Spagna ha tagliato 4 punti di spesa pubblica e cresce al 3,2. L'Irlanda ha tagliato quasi 9 punti di spesa pubblica e cresce intorno al 7%. L'Italia nell'ultimo quinquennio ha fatto un incremento di spesa pubblica, quindi quello che si augura il professor Marco Fortis, e cresce intorno allo 0,5. Quindi questo dimostra, come diceva ieri il presidente Mario Draghi nella conferenza stampa giovedì, sì, che chi ha aumentato la spesa pubblica negli anni anche prima della crisi non è cresciuto, non ha portato posti di lavoro, quindi spesa pubblica non necessariamente significa maggiore crescita. Lo stesso Mario Draghi sosteneva il concetto di Seminario, che non conta tanto l'entità o la qualità, ma conta la composizione. Oh, su questo. Quello che sta avvenendo in Italia è nell'ultimo biennio che si taglia la spesa in conto capitale, ma c'è un motivo politico, perché certo, tagliare consenso. La spesa corrente significa poi andare a discutere con una serie di interessi precostituiti che hanno voce in capitolo. ridurre la spesa in conto capitale, siccome gli effetti negativi si vedranno nel tempo, il governo che lo fa oggi non ne paga le conseguenze, ne pagheranno i nostri figli. Poi ne pagheranno i nostri figli ad aumentare. Dei vari esempi che lei ha citato, io condivido integralmente quello che ha detto, ma siamo in minoranza. Però se ci fosse un obiettore, adesso lei direbbe: e no, cara Veronica De Romanis, parliamo per esempio della Spagna. La Spagna cresce di più perché fa più deficit di noi, anzi lo fa perché se lo prende con la forza e non le hanno neanche sottoposto né lei né il Portogallo alla procedura di infrazione. Ma questo però, guardi, le risponde non... subito. Il problema è la dinamica, la tendenza. La Spagna sta in una procedura di disavanzo eccessivo, lo sappiamo, un disavanzo superiore al 3%, ma è partita da un livello molto superiore al nostro, che era intorno al 10%. Negli anni ha fatto una riduzione pesantissima di oltre appunto 7 punti. Il debito aumenta, questo è evidente, ma proprio perché il disavanzo è molto alto e quindi contribuisce all'incremento del debito. Ma infatti la Spagna deve proseguire. La cosa che secondo me è interessante, perché anche qui bisogna sfatare un mito che con l'austerità si perdono le elezioni, è già due elezioni, una nel dicembre l'anno scorso e nel giugno di quest'anno, che gli elettori spagnoli premiano il partito di Rajoy. Cioè Rajoy è il premier con il suo partito che ottiene la maggioranza dei voti, poi non riesce a fare un governo, ma questo è un altro discorso. Ma questo significa che gli elettori, di fronte a un Rajoy che dice continuiamo con i sacrifici perché i risultati li stiamo ottenendo, e un Podemos per esempio che promette 100 miliardi di spesa pubblica nei prossimi 3 anni, beh, la gente in Spagna tende a credere a chi promette conti in ordine e minore debito per le future generazioni. Allora, torniamo tra un minuto. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci tornati, abbiamo appurato quindi che insomma nelle intenzioni dichiarate da Renzi fin dall'inizio la riforma della PA non doveva servire a fare riduzioni stabili della spesa pubblica, anche se Padoa diceva il contrario all'inizio, e in effetti la spesa pubblica in questi anni è cresciuta più moderatamente di prima, ma ha continuato a crescere, e il problema è che i dati sembrano dire che chi l'ha tagliata, quanto più considerevolmente l'ha tagliata, e tagliando anche le tasse, ci cresce di più in Europa. Chi non l'ha fatto cresce di meno, ma chi non l'ha fatto e cresce di meno dice che invece cresce di meno perché non può fare il deficit, perché i cattivi tedeschi ci hanno imposto regole sbagliate, asimmetriche, che vanno solo a loro vantaggio. Caro Alberto, questa riforma della PA, ma insomma, tu con i decreti attuativi che hai visto fino a questo momento, che opinione ti sei fatto? Volevo chiedere a tutti di riflettere sul fatto che non si può guardare la spesa come dato effettuale, bisogna guardare le cause della spesa, cioè chi prende le decisioni, come si organizzano gli incentivi di chi deve decidere di fare razionalità. Purtroppo ancora una volta è stata persa l'occasione con i decreti sulla dirigenza di dare un compito chiaro ai dirigenti della pubblica amministrazione, che non è, caro Oscar, massimizzare o minimizzare i loro augusti stipendi, peraltro più alti della media europea, bensì i parametri chiari, KPI chiari, di efficienza e di produttività. Purtroppo Mariana Madia ha detto chiaramente che l'efficienza e la riduzione della spesa non era l'obiettivo, no? Veronica stessa è intervenuta su questo tema qua. Volevo chiedere però un commento, perché per me il problema non è pagare i dipendenti pubblici poco o tanto. Cioè, dici tu, per me del 240 no, frega niente. Io posso pagare niente anche a livello di mercato, ma mi dovete dare risultati di mercato. If you pay peanuts, you get monkeys, come dicono gli americani. Se paghi noccioline, arruoli delle scimmiette. La verità è che io dai dipendenti pubblici, che vorrei bravissimi e anche arruolati sul mercato, chiedo un'efficienza borbonica. Sentiamo Veronica come la pensa. Allora, ci sono due punti, poi mi lasci fare una battuta sul rigore imposto dai tedeschi, sì, perché ieri c'è stato questo Club Med a Atene. Allora, sulla riforma della PA è vero, negli altri paesi quando si è stata fatta una riforma della PA, la prima cosa che si è fatta è mettere dei obiettivi quantitativi in termini di risparmi. Si è scelto, esatto, nel caso nostro di non farlo, l'ha detto sia il ministro della funzione pubblica varie volte, che non solo non li metteva, ma non gli interessava sapere quanti, esatto, erano. Ma lo stesso Renzi l'avete fatto sentire voi. Quindi è evidente che non è quello l'intento. Per quanto riguarda la riforma della dirigenza, a mio avviso è una delle cose più importanti da fare, perché poi la spesa la gestiscono chi lavora nella PA, e questa riforma della dirigenza va in senso contrario all'incremento dell'efficienza, perché tende a politicizzare la pubblica amministrazione. Ci sarà una commissione di gente appunto nominata dalla politica non pagata, ed ecco lì appunto sono d'accordo con Callalberto che non pagare le persone che hanno un ruolo nella pubblica amministrazione non è mai una buona idea perché non fanno un buon lavoro, e ovviamente i dirigenti dipenderanno dal giudizio di questa commissione che avrà una connotazione molto politica, quindi l'incentivo dei dirigenti non sarà fare bene ma sarà cercare di conoscere i politici all'interno della commissione. Per quanto riguarda invece il rigore tedesco, quando si dice ce lo impone la Germania, l'ha detto anche ieri Renzi, basta con l'austerità imposta dalla Germania, bisogna ricordarsi tre punti, che intanto la Germania non impone nessun rigore, perché quando per esempio si è parlato del terzo pacchetto greco erano in molti a voler imporre maggiore severità alla Grecia, la Germania ovviamente, ma chi aveva fatto l'aggiustamento come la Spagna o il Portogallo, ma anche i paesi più poveri, la Lituania, la Lettonia, paesi che hanno un PIL pro capite ben inferiore a quello dei greci e nonostante ciò pagano per i dissesti dei greci. Ricordiamoci che i greci hanno già ottenuto 230 miliardi e stanno al terzo pacchetto di salvataggio. Ma poi il secondo punto, l'austerità ce la impone i mercati. C'è un momento in cui uno chiede a prestito, poi a un certo punto i mercati chiudono, dicono basta, non ci fidiamo più. E questo è esattamente quello che è successo nel 2009 quando Papandreou, l'ex premier greco, dovette chiedere aiuto agli europei prima però di fare ammenda e ammettere che aveva truccato i conti. E poi c'è un terzo punto molto importante, l'austerità, che poi non significa altro che mettere i conti in ordine, è fondamentale quando si è in un'unione monetaria che non è un'unione politica. Cioè tutti quelli che condividono una stessa moneta, un po' come avere un appartamento in un condominio, devono rispettare delle regole, perché altrimenti se qualcuno non le rispetta, l'abbiamo già visto durante la crisi, sono gli altri che devono pagare e gli altri non hanno così tanta voglia di pagare. Ecco perché ci sono delle regole, regole che poi sono necessarie per andare avanti in questa costruzione dell'unione politica. Se vogliamo avere un'unione fiscale, quindi mettere in comune il nostro debito, beh, è chiaro che qualche regola la dovremmo rispettare. Detto ciò, e questo è il quarto punto e mi chiudo, queste regole non sono così rigide come ce le fanno passare, la flessibilità c'è nelle regole. Ma solo a Renzi fino a questo momento, e vedremo per l'anno prossimo, gli hanno dato 1.7 di PIL, esatto, di deficit in più. L'altro anno abbiamo ottenuto oltre 14 miliardi di flessibilità, che vuol dire di deroga, di maggiore spesa, che ovviamente sono soldi nostri, dei nostri figli che lo dovranno ripagare, non sono soldi che ci dà dell'Europa. Questa settimana mi sembrava in televisione un ministro diceva sono soldi che ci dà l'Europa, no, sono soldi nostri che dovremo restituire, ma come li abbiamo utilizzati, lo dicevamo prima, per spesa corrente, soprattutto l'abbiamo utilizzati il nostro taglio di tasse che è previsto nella legge di stabilità di quest'anno di oltre 17 miliardi, 16.8 di questi 17 miliardi, cioè quasi, verranno utilizzati per le clausole di salvaguardia, quindi non abbiamo fatto una riduzione di, che Renzi anche ha tentato fiscale, di attribuire alle spalle dei predecessori quando poi i più erano confermati dai suoi governi, quindi insomma. No, quelle che stiamo disinnescando quest'anno e l'anno scorso sono state inserite dal governo Renzi. C'è una piccolissima parte che è stata inserita nel governo Letta, ma no, però negli anni precedenti. Quindi questo per dire che l'austerità, che non significa altro che avere i conti in ordine, non ce la impone la Germania, dobbiamo smettere dalla colpa agli altri perché sennò non facciamo nessun passo avanti. È importante avere i conti in ordine perché condividiamo una moneta, dobbiamo dare il nostro contributo a una crescita stabile dell'area dell'euro. Abbiamo visto che quando ci sono dei nervosismi sui mercati poi non si cresce. E il terzo punto, se noi vogliamo andare verso degli euro bond, a maggior ragione. E ricordiamo che i greci anche questo settembre avevano 22 provvedimenti che dovevano all'arco dell'anno emanare per avere diritto ai 2.8 miliardi che la tranche che aspettano entro settembre, ne hanno fatti 5 per essere chiari. Torniamo dopo il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Della belva. Eccoci qui tornati in diretta ai compagni di Conti da Belva, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. Lo spirito un pochino che sarà ricorrente in questa trasmissione è quello che si sente in un grande film a un certo punto, un grande film nel quale c'è un giornalista che si rivolge agli ascoltatori, Quinto Potere. Le cose vanno male, più che male, è la follia, è come se tutto dovunque fosse impazzito, così che noi non usciamo più. Ce ne stiamo in casa e lentamente il mondo in cui viviamo diventa più piccolo e diciamo soltanto, almeno lasciateci tranquilli nei nostri salotti per piacere, lasciatemi il mio tostapane, la mia TV, la mia vecchia bicicletta e io non dirò niente, ma lasciatemi tranquillo. Beh, io non vi lascerò tranquilli, io voglio che voi vi incazziate. Non voglio che protestiate, non voglio che vi ribelliate, non voglio che scriviate al vostro senatore perché non saprei cosa dirvi di scrivere. Io non so cosa fare per combattere la crisi e l'inflazione, i russi e la violenza per le strade. Io so soltanto che prima dovete incazzarvi, dovete dire sono un essere umano, porca puttana, la mia vita ha un valore. Quinto Potere, questo film è un capolavoro. Il problema naturalmente è che incazzarsi, ok, e sulle soluzioni. E allora, dopo anni in cui noi abbiamo perso punti di PIL, di reddito pro capita, eccetera, eccetera, eccetera, e siamo ancora a una crescita che torna a zero, e con una parte d'Italia che dice basta, più deficit, basta, meno disciplina, basta, niente euro, basta regole europee sulle banche, basta, basta, basta, dazi, svalutiamo e coi dazi cresceremo di più. Allora, l'incazzatura, perché io stesso ho fomentato e fomento di fronte alle cose che non mi convincono, perché non credo a un giornalismo asettico, tenuto a dire tutto va bene, madama la marchesa, neanche per idea, naturalmente c'è un momento oltre il quale poi il livello di caduta dell'incazzatura, che non abbraccia soluzioni realistiche, è un meccanismo che autoalimenta poi la crisi dell'incazzatura. Quindi questo è il problema che noi ci poniamo, per così dire. Abbiamo due ospiti per ragionarne, sentiamo rapidissimamente anche qualche ascoltatore. Marzio da Roma, Marzio. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare un intervento di questo tipo, diciamo, sulla base di un'analisi di quella che è la politica economica del governo Renzi. E sembra evidente che in qualche modo voglia ammiccare a dei comportamenti di centrodestra, cioè dare una veste politica di rinnovamento e di riformismo, che però non riesce a sostanziare perché ha un Parlamento con un'opposizione interna che non gli consente di attuare questa politica. E questa è una valutazione ottimistica, cioè abbiamo un Presidente del Consiglio che vorrebbe fare delle riforme, non riesce a farle, quindi non interviene sulla spesa corrente come dovrebbe, perché non riesce ad avere l'appoggio politico interno. Buona intenzione, tempo, nemici in casa. Sì, diciamo, ipotesi di buona intenzione. Diciamo, pensiamo che abbia la buona intenzione di farlo, nemici in casa, un Parlamento che non gli consente di fare una politica che potrebbe essere più in linea con quello che sarebbe il suo desiderio di avere un Parlamento con un partito democratico più simile a un partito della nazione. Però allo stesso tempo cosa succede? Succede che si crea un vuoto politico, è un'aspettativa politica a centrodestra. Tornando all'intervento della dottoressa che ha parlato prima, sì, riguardo al premio che Rajoy ha incassato nelle due elezioni che non gli hanno consentito di fare il governo, ma che gli ha consentito di avere un risultato elettorale, la sensazione che si ha è che si stia definendo uno spazio che i 5 Stelle rischiano di non cogliere e interpretare proprio a centrodestra, affinché si vada. Quindi lei ho capito, Marzio. Marzio ci dice uno spazio per il realismo, seppure nel centrodestra c'è, e però il problema è che chi è realista nel centrosinistra è in minoranza a casa sua. Ecco, sintesi di Marzio. Sergio da Roma, come la pensa? Sergio. Ma grazie ragazzi intanto di aver richiamato. Ma sì, io quando sento parlare di spending review mi viene un po' l'orticaria, perché innanzitutto vorrei togliere il carattere di straordinarietà dalla revisione della spesa, che deve essere un'attività ordinaria di finanza pubblica. Ma poi, ragazzi, qui è passata la stagione dei tagli lineari, che sono una cosa, diciamo, vergognosa, perché tagliare linearmente, io lo dico anche al governo, visto che cambiano un commissario o responsabile di spending review ogni 8-10 mesi, è disponibile anche mia madre a fare un taglio lineare, non ci sono problemi, gli dati i conti e lei le abbassa percentualmente. La spending review, la revisione della spesa, va fatta su una base qualitativa, ma ahimè, per fare revisione qualitativa della spesa bisogna conoscere l'ambito in cui si va ad intervenire. E la tua tesi qual è? Che non lo si conosca? Evidentemente no. Perché Sergio, io però posso dirci questo, ma perdonami, insomma, occupandomene da decenni, non è vero, cioè, anzi, voglio dire, noi abbiamo passato un bel po' di tempo a conoscere nei meandri, per carità, non è facile, le migliaia di centri di spesa, di procurement disseminati nella pubblica amministrazione, di criteri diversi e così via, eccetera, eccetera. Però la verità è che ormai sappiamo tantissimo, si sa quasi tutto, eh? Tranne ciò che poi ci pensano le procure a rendere più chiaro e trasparente, che non è poco, però si sa dov'è, si sa quanti sono, chi sono ad amministrarla. Anzi, il problema è che da quando l'abbiamo saputo non ci sono più scuse, e allora si iniziano ad addurre scuse macro per dire no, è un errore farlo perché sennò diminuisce il PIL, cosa di cui si è convinto ormai un grandissimo numero di italiani, osservatori e così via. Il problema non è la conoscenza, secondo me, ma torniamo al punto da cui siamo partiti, cioè fomentare l'incazzatura in Italia è giusto, con quali però strumenti di realismo, e qui la forbice si apre. Allora, noi abbiamo due ospiti con cui fino alle 11:30 ci interrogheremo su questo, e sono due punti di vista strutturalmente molto diversi, perché da una parte abbiamo il segretario della Lega Lombarda, deputato della Lega Nord, Paolo Grimoldi, grazie di essere con noi. Non c'è, caduta la linea. E abbiamo invece, però richiamatelo per favore, e poi abbiamo Udo Gumpel, se no pensano che l'ho fatto apposta, perché questo poi è chiaro che ci tengo apposta a fare un dibattito. Gombloddo! Ecco, appunto, no, è caduta la linea. E Udo Gumpel, giornalista e corrispondente dell'Italia per la rete televisiva tedesca NTV del gruppo Bertelsmann. Grazie di essere con noi, Udo. Niente, oggi siamo... Gumpel e Grimoldi sono fuggiti assieme. No, va bene, allora adesso, dopo, tra un minuto sospendiamo e vediamo un pochino cosa diavolo sta succedendo. E a questo punto abbiamo ancora una telefonata. Luca da Milano, prego Luca. Buongiorno a voi. Buongiorno. Un commento sulla scia dei vari commenti sentiti che il PIL tendenziale, congiunturale, comunque l'Italia cambia verso. Sì. Io ieri mi sono dilettato a guardare i CDS dell'ultimo anno della Repubblica Italiana sui 5 anni, e non mi sembra che sia cambiato verso. Se non vado male, siamo sui 137 in salita. Già. Volevo un commento su questa asimmetria. E poi un flash anche su quello dell'Inghilterra, perché come Seminario dice sempre, la Brexit non è ancora avvenuta, esatto. Io sono d'accordissimo su quello, il CDS è ritornato dopo il picco per lo shock, per la sorpresa dell'esito del referendum, è ritornato ai livelli precedenti, siamo intorno all'80, sì. E comunque in no, Europa... anzi quello che è capitato è che nel brevissimo tutte le agenzie, tutte le grandi banche avevano rivisto al ribassissimo le aspettative di prezzo, sì. Adesso le stanno tutte correggendo al rialzo, sì. ma io lascio parlare a Mario, state attenti che fino a che non si capisce come si determina, quando, con che strumenti, è ovvio che nei modelli non si possono, esatto, mettere i cambiamenti per fare le valutazioni, Mario, esatto. No? Allora, per quanto riguarda i CDS, quindi i credit default swap di cui parla l'ascoltatore Luca da Milano. Luca, è uno strumento, diciamo, che è un po' caduto in obsolescenza per tanti motivi regolamentari, eccetera, ma soprattutto in questo momento, diciamo, lo spread anche su quello tende ad essere più basso. Perché? Perché c'è l'azione anestetica della Banca Centrale Europea. Degli 80 miliardi al mese. Vediamo cosa sono polizze assicurative, sì, contro, esatto, il rischio di un default. Ecco. Esatto, o di un emittente privato o di un emittente sovrano. Io tengo a ribadire, in questo momento lo spread sui credit default swap italiano è più largo di quello spagnolo, ben più largo rispetto alla corrispondente differenziale che si nota sul decennale dei titoli di Stato. Però questo è, ripeto, uno strumento che lascia un po' il tempo, sì, che, esatto, trova. Quindi a oggi. Io quello che vorrei rimarcare è che in questo momento, quando si dice, ad esempio, guardate, il rendimento del BTP, che è così basso, diciamo, storicamente, eccetera, è semplicemente anestetizzato, il premio al rischio è stato anestetizzato dall'azione di Draghi. Perché avere Draghi un paese... Draghi ti dà la droga, come dico, esatto, sempre. Esatto. Avere un paese che ha una crescita molto bassa e soprattutto un rapporto debito-PIL che non riesce a flettere, tende a creare un aumento del rischio sovrano, sì, non una diminuzione. Eh sì. Questo, quindi invece noi vediamo lo spread sta intorno a 115-120 perché è anestetizzato dall'azione della BCE. Domanda, quanto dura questa anestesia? Finirà. Una cosa è sicura, finirà. Esatto. Solo che i governi dicono no, è merito mio e non deve finire e la cosa della BCE. Esatto, domani. E però, E però dobbiamo anche dire che lo spread italiano si sta andando a schiantare altrove, le banche, esatto, ad esempio, come vengono martellate le nostre, esatto, banche, a torto ragione. Per quanto riguarda Regno Unito, questo, faccio solo un piccolo inciso, la Brexit non è ancora avvenuta, gli scenari catastrofici relativi al, diciamo, al pre-referendum erano relativi esclusivamente all'ipotesi che si arrivasse ad una rottura drammatica e pressoché immediata tra la Unione Europea e il Regno Unito. Quella rottura non c'è stata, di conseguenza ora siamo anche qui in una condizione di anestesia, con Theresa May che va in giro per il mondo e a casa sua a dire Brexit means Brexit. Brexit, ma nessuno sa che diavolo voglia dire. quando invocheranno il famoso articolo 50 del trattato di Lisbona, vedremo. Però mi compiaccio nel vedere che la non Brexit è diventata la bambola gonfiabile dei noi euroitaliani. Allora torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati con i compari dei conti della belva. Che compare Carlo Alberto, Alberto Carnevale, cantatela, state sui social invece quando siete in diretta, vi ho beccato, il maestro vi ha beccato. No, e abbiamo rimediato al nostro problema telefonico di prima, perché torno brevissimamente a dire, abbiamo due ottiche, abbiamo scelto per interrogarci con due punti di vista diversi su che cosa sia o non sia il populismo, perché siccome noi siamo i primi incazzati per cosa non funziona nel nostro paese, però dopo che per anni ci si incazza diventa anche arriva un punto nel quale, se le soluzioni che si abbracciano e si indicano sono irrealistiche, beh, diventa a quel punto un loop, un gatto che si morde la coda e non se ne esce più. Però i due ospiti che abbiamo collegati con noi sono, da una parte, il segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega Nord Paolo Grimoldi, grazie di essere con noi. A lei, buongiorno. E Udo Gumpel, giornalista e corrispondente dall'Italia per la rete televisiva tedesca NTV. Grazie di essere con noi, Udo. Sì, grazie, grazie a voi. Posso cominciare con te, Udo? Il tasso di populismo italiano lo vedi in crescita, in diminuzione, stabile come negli altri paesi europei? Sono gli altri paesi europei che lo stanno adottando come noi? Che cosa dici? Ma la domanda è in realtà una domanda buffa, perché di per sé il populismo o il politico che guarda ciò che il popolo vuole non è nulla di male. Cioè, bisogna vedere, di capire che cosa si intende sotto populismo. Cioè, populismo significa rispondere alle esigenze, essere sensibili a ciò che il popolo, ovvero la maggioranza della gente, vuole, non è nulla di male. E certamente uno potrebbe anche, come naturalmente noi giornalisti vediamo spesso il termine populismo, e quella ricerca di trovare i sentimenti populistici, ovvero di giocare su sentimenti più nutriti di paura e di ignoranza dei fatti e dei problemi, e questo certo è un dato negativo. Oppure quando sotto populismo si intende la ricetta facile a problemi complessi, no? Però lo sai che questa è la vera domanda. Cioè, la vera domanda è, nel tuo paese Alternative für Deutschland sta diventando, prende sempre più voti. Alternative für Deutschland dice: intanto troppi immigrati, e in questo si sbaglia. La Merkel risponde al Bundestag: no, l'impegno che prendiamo è che i miliardi che noi spendiamo per integrare gli immigrati non levano un euro ai tedeschi, anzi aumentiamo anche le spese di welfare ai tedeschi. Però ammettiamolo, la risposta della Merkel non ha la stessa presa di quella di Alternative für Deutschland. Una risposta ponderata non può mai avere la stessa presa che una risposta semplice. Cioè, quando uno propone delle risposte semplici a dei problemi complessi, che però di fronte al pubblico, a una larga fetta anche del pubblico europeo, possono secondo loro avere delle risposte semplici, è chiaro che chi tenta di far riflettere ha maggiore difficoltà di chi propone soluzioni con la città, no? Fuori gli immigrati è uno slogan, due parole, ed è molto semplice. Dire la integrazione dei migranti, coloro che hanno savassonti il diritto di stare in Europa, in Germania, secondo i diversi criteri, che non è solo l'asilo politico, ma c'è anche il diritto sussidiario, ovvero in una zona di guerra escono dalla zona di Aleppo, escono delle persone, e che c'è la guerra ad Aleppo in Siria, queste persone hanno il diritto di restare. Una volta finita la guerra, loro se ne devono tornare. Questo per esempio è un diritto sussidiario che riguarda quasi 30-40% dei migranti, dei profughi che arrivano dalle nostre parti, di cui la Lega Nord non ama parlare quando, e lì faccio anche subito la critica precisa, quando parla del 5% dei migranti in Italia che ottengono asilo politico, hanno ragione, ma omettono quell'altro 40% dei migranti che hanno diritto a rimanere in Italia perché nelle loro terre d'origine c'è una guerra talmente devastante che rischiano la vita, dunque hanno il diritto sussidiario, e che comunque anche questo è contemplato dalla Costituzione sia italiana che tedesca. È comunque chiarissimo. Udo dice le risposte razionali, ponderate, non possono avere la stessa presa, però se poi la soluzione non si trova e le asimmetrie crescono all'interno dell'Unione Europea, succedono delle cose traumatiche. Questo, secondo me, il 2017 potrebbe essere l'anno delle soluzioni traumatiche. Secondo me, chi vince in Francia alle elezioni, se vince la Le Pen, io la penso così: Le Pen vince le elezioni presidenziali, guardate, può. Altro che la Brexit, ecco, questo è quello che penso io, perché si infrange, insomma, il nocciolo duro a quel punto franco-tedesco su cui nasce l'idea. Poi rispondo a Udo Gumbel dando la parola a Paolo Grimoldi per difendersi, per dire perché invece loro pensano, la Lega dice no euro, no immigrati, eccetera eccetera. Ed è verissimo quello che dice Udo Gumbel, è comodo dire solo il 5% di coloro che hanno diritto all'asilo, di quelli che vengono in Italia, c'è anche un 40% che ha comunque il diritto, resta il problema naturalmente, Udo, che però poi c'è anche un 40% di coloro che ci restano clandestini, perché questa è la tragica realtà. E questa settimana io, quando ho visto i numeri ufficiali, 68.000 dall'inizio del 2016 richieste di asilo di migranti venuti nel nostro paese, è a 34.000 di quei 68.000 la risposta è stata il foglio di via 10 giorni, che nel nostro paese significa che si resta in Italia da clandestini. Questa è tragico, perché non è che si può dire che ce lo si inventa, è un problema rispetto al quale l'Italia una soluzione non l'ha trovata, perché ha sperato per anni che andassero, varcassero la frontiera in altri paesi europei. Adesso, siccome non può più avvenire, adesso restano a casa nostra, che ci stanno sigillando. Oh, bravo, di fatto. E questa è la tragica realtà. Grimoldi, però, la vostra risposta a chi critica si è facile fare populisti dall'euro ai migranti, qual è? Ma a parte che su quello che diceva lei adesso ho poco da aggiungere, nel senso che quando sigillano il nostro paese tutti i confini europei, qualcosa vorrà dire, quantomeno che il nostro governo ha delle mancanze importanti sulla gestione dell'immigrazione e vuole dire sulla stragrande presenza di questa sotto forma di clandestinità. Detto ciò, il governo inglese populista ha deciso di costruire un muro. Il governo austriaco è populista, manda 2.200 soldati al confine. Il governo ungherese è populista. Il governo francese con Hollande è populista, che controlla i confini con l'Italia. Il non governo spagnolo è populista. Gli spagnoli sono populisti che fanno i respingimenti. Capisce che c'è un problema oggettivo. Non si può portare tutta l'Africa Europa, bisogna trovare delle soluzioni. Io credo che la soluzione non sia quella di accogliere tutti, perché non possiamo permetterci, ma al di là dell'economia, per motivi anche di spazio fisico, di accogliere tutti. Dopodiché c'è anche da considerare il fatto che probabilmente sul termine populista dal quale noi siamo partiti, probabilmente la maggioranza dei tedeschi in queste ore ritiene il governo italiano populista, perché ha partecipato a un bellissimo incontro sull'aumentare la spesa pubblica, che io ritengo sia l'ultimo dei problemi dello Stato italiano. Ah, come non male. Per un secondo, quando ha detto bellissimo, ho detto oh mio Dio, la Lega la pensa come Tsipras. Però io volevo chiedere, ma scusi, cioè, allora ci stanno sigillando i confini gli altri paesi, che è l'equivalente di una sorta di morte lenta di Schengen. Ora, se io ricordo bene, il suo segretario federale, qualche mese fa, inizio anno, era scatenato assieme a Grillo a dire che noi dovevamo ripudiare Schengen. Ora però spiegatemi, se noi ripudiamo Schengen, non è che per caso questo flusso che arriva prevalentemente dal mare resta, e siamo sigillati a nord, a 20 miglia, a Como Chiasso, al Brennero, eccetera, resta solo ed esclusivamente qua? Perché vorrei far notare che noi abbiamo un confine marittimo. Quindi quando si dice no a Schengen, poi alla fine se veniamo sigillati per altre vie, non lamentiamoci. Qual è la soluzione? Questa mi pare la classica soluzione populista. Populista. Cioè, basta con questa invasione, però quando si dice operativamente che cosa facciamo? Chiarissima la domanda, sentiamo Grimoldi. Guardi, basterebbe iniziare a non andare, lei giustamente parlava di confine marittimo, basterebbe intervenire sul proprio confine marittimo, non andare al limite del confine marittimo libico a prendere sul bagnasciuga i migranti. C'era una bellissima vignetta qualche giorno fa su un quotidiano nazionale dove una mamma litica diceva ai bambini: non andate dove non si tocca, se no vi portano subito in Italia. Allora, è una vignetta ma rende bene il concetto. Noi oggi abbiamo un governo che fa una politica di accoglienza a 360 gradi, che manda un messaggio politico ben chiaro a tutta l'Africa: venite qua tutti perché vi diamo la casa, vi diamo vitto alloggio. Con delle cose che sono quasi da comica. Ricordo un anno e mezzo fa, quando la Marina Militare greca ha fermato un barcone di migranti e questi si sono rifiutati di essere salvati dalla Marina Militare greca perché hanno risposto: solo in Italia ci danno la casa. Allora è evidente che c'è un governo, dal mio punto di vista, che è troppo orientato sul cercare di far venire qua tutti. Cioè lei dice l'Italia in piccolo, ma per anni però ha dato un'idea ai paesi da cui provengono i flussi che vengono attraverso il Mediterraneo in Italia, di un paese in cui insomma si poteva stare senza troppi problemi di legalità. Guardi, adesso poi la Merkel ha fatto un altro errore, cioè quello di dire improvvisamente, senza aver contrattato con gli altri paesi, senza immaginare quello che sarebbe avvenuto nel corridoio centroeuropeo, che poi ha portato ai muri, al blocco dei paesi di Visegrad che la pensano diversamente e così via, quando ha detto venite qua e ce la faremo. Però l'errore italiano è stato quello? Guardi, la Svizzera, la Danimarca e altri paesi pagano degli spot pubblicitari nei paesi del Nord Africa per dire: non venite qua perché non è il paese del Bengodi, perché non è vero che avrete tutto, perché non è vero che migliorerete la vostra qualità della vita, non cercate di venire qua. Noi invece stiamo facendo l'esatto contrario. Con questa politica è come se pagassimo una pubblicità in diretta per dire: venite qua, va bene. Allora, oggi ci siamo occupati di chiarire questa storia dell'immigrazione. Però io a Grimoldi dico: guardi, noi la chiameremo spesso nel corso dei nostri sabati, perché con Udo Gumpel e con lei vogliamo esaminare, al di là dell'immigrazione, la questione dell'euro, delle regole sulle banche, delle regole sul debito. C'è bisogno, noi vorremmo, è proprio la proposta che facciamo, vorremmo farlo sistematicamente, perché vogliamo esaminare i problemi che ci sono grandi e io ho molte paure per il 2017 in Europa. Però ragionando, ecco, prendiamoci questo impegno di ragionare, perché è ovvio che io la penso un po' come Udo, la pensiamo un po' così noi sul fatto che le regole servono all'Italia perché noi abbiamo motivi di debolezza nostri. Voi, e non dico solo voi, non dico solo la Lega, dico tanti altri, siete convinti che le soluzioni invece radicali, no euro, rompiamole queste regole, siano a questo punto la soluzione? Allora forse bisogna offrire un modo per ragionare insieme in maniera equilibrata, e questa è la nostra speranza. Quindi vi richiameremo sia Grimoldi che Udo Gumpel, torniamo tra un minuto. Della belva. Eccoci qui tornati in studio con i compagni dei conti della belva. Sentiamo ancora qualche nostro ascoltatore al telefono e poi abbiamo da far sentire un altro contributo audio. Allora cominciamo con Carlo da Milano. Carlo, prego. Buongiorno Giannino. Buongiorno. Complimenti a chi ha scelto il titolo della trasmissione. Mi sembra che rispecchia pieno lo stato del nostro paese in questo momento. Che voleva dirci? Ma io ho sentito, purtroppo ho dovuto abbandonare l'ascolto perché sono tornato operativo in azienda, e ho sentito praticamente cosa accennavate sulla questione del taglio della spending review e quant'altro. Sì. Io credo che bisognerebbe guardare anche un passettino più avanti, bisognerebbe poi capire questa spending review, che sicuramente avrà un impatto sull'occupazione degli impiegati pubblici, dove vadano a finire queste maestranze che perderanno il posto di lavoro, non avranno più un riposizionamento. Se lo Stato non dà una mano alla libera impresa cercando di agevolarla, non si creeranno posti di lavoro. Partire, no, certo, non si creano per decreto, Carlo. Comunque, insomma, fino a questo momento la diminuzione, che è significativa negli anni del totale dei dipendenti pubblici nel nostro paese, che attualmente sono 3.230.000, mentre erano 3.700 anni fa, è dovuta in buona sostanza al blocco del turnover, cioè sono stati meno assunti, se non nella proporzione di 1 a 10 per alcuno, rispetto a quelli che uscivano in alcune parti delle pubbliche amministrazioni che dovevano comunque continuare ad assumere poche, e per il resto il blocco del turnover c'è stato, quindi pensionati non sostituiti. Questo negli anni ha scremato in maniera significativa, non ha creato esuberi, cioè qui di licenziati pubblici, guardate, non ce ne stanno. Quelli delle province li stanno riallocando alle altre amministrazioni, quindi quando leggete che il decreto attuativo della riforma Madia sulle partecipate pubbliche porterà 100.000 disoccupati, è una palla clamorosa, perché io mi accetto qualunque scommessa, cari ascoltatori: il decreto sulle partecipate non porterà da 11.000 a 1.000 partecipate pubbliche nel giro di 2 anni. Mi prendo questa scommessa, scommettete quello che volete insieme a me, poi mi pagate, però se fate la scommessa. Io vi avviso che funzionerà così. Sergio, ancora da Milano, prego. Sergio, buongiorno. Volevo intervenire sulla questione immigrati. La cosa che non capisco, io sono d'accordo, ci hanno blindato le frontiere, sono d'accordo di salvare in mare tutti quelli naufraghi, gli immigrati, però non capisco perché le navi italiane che battono bandiera italiana e quindi è territorio italiano sono autorizzate a portarle in Italia, ma la nave francese o inglese o quando li raccoglie non può scaricarli a noi, se li porta sul Sergio, perché questo è un dispositivo che nasce, la missione Sofia nasce per estensione di Frontex, è una cosa europea, quindi quel dispositivo è lì in quanto la cosa italiana è la frontiera sud esposta dell'Unione Europea, quindi è un dispositivo che agisce con regole concertate, non sono lì in presenza di una missione nazionale decisa da Londra e Parigi non concordata e non cooperante con noi, è una missione europea quella, quindi e da questo punto di vista quello che dice lei non si può fare. A questo punto qualche minuto random da dedicare a quest'altra cosa che sta avvenendo a Roma e che riguarda una delle forze più cariche di speranza nel giudizio degli italiani, cioè i 5 Stelle, che di fronte alle novità poi arrivano a Roma e succede una certa cosa. E allora la questione di fondo è adesso sentiamo come il presidente della regione Campana De Luca ha trattato uno dei leader che finiscono inzaccherati nella storia dei 5 Stelle a Roma. Sentiamolo. Ho cercato, mi hanno dato un po' un curriculum vitae di Di Maio. Che questo è il suo curriculum, la professione libera di webmaster. E questa è una cosa grossa. Lei ha mai sentito uno a cui chiedeva tu che lavoro fai? Webmaster. Però ci tiene ad informarci che in realtà ha fatto altre esperienze lavorative, fra cui steward presso la Tribuna Autorità dello Stadio San Paolo di Napoli, assistente regista, tecnico riparatore dei computer, agente commerciale, manovale presso un'impresa edilizia. Quindi a un certo punto lui la sua vocazione l'aveva scoperta. Avrebbe pure avuto un'ottima carriera, perché dopo un anno sarebbe diventato sicuramente carpentiere, poi si è perso per strada. E così ce lo ritroviamo, niente di meno che vicepresidente della Camera. Allora, la musichetta era voluta, perché, cari amici, anche a Roma c'è un cortocircuito, come su il significato della parola populismo, cioè quello che sta avvenendo a Roma, chiedo di commentarlo voi, io oggi ho scritto un lungo editoriale, sono abbastanza senza parole, come dopo mesi che sapevano che vincevano, arrivassero così impreparati, spaccati, divisi, vabbè, e quindi chiedo a voi. Ma la domanda che vi faccio è anche un'altra: se la politica italiana propone aspetti che sono paradossali, circensi, ma la si commenta anche nel modo in cui poi De Luca la commenta, E il circo si autoalimenta, è come il loop del populismo, perché benissimo, grande battutista De Luca, che però c'ha i figli che fanno politica pure lui, attenzione, attenti alle professioni, perché la professione del politico fatta in famiglia non è una cosa più dignitosa di chi ha un curriculum magari non eccezionale ed eccelso come Di Maio. Ma non è che così il circo lo fa anche chi lo commenta da circo? Se la politica italiana diventa sempre più circo, come la pensano Mario e Carlo Alberto? Chi comincia a rispondermi? Che se non c'è stato un processo di formazione e selezione di una classe dirigente adeguato, è chiaro che questi sono i risultati. Voglio distinguere per esempio il processo che è successo a Torino con un team locale che è partito da lontano, ha una storia importante, discutibilissima, per me critica, ma oggettivamente ha preso in mano cari ascoltatori vi rivelo che il sindaco di Torino Appendino ha dato l'esame con il professor Carlo Alberto Bocconi. Chiusa parentesi. Ha preso anche 30, devo dire la verità. E invece questa cosa non sta succedendo a Roma, però posso dire che questo esercizio di come chiamarlo, non so, giustizialismo come criterio di selezione delle persone è semplicemente assurdo. Questi riescono ad ammettere di essere stupidi pur di non ammettere di essere manettari, non so, quindi per me è un tema di organizzazione. Io rispetto le idee di questi signori, poi li vediamo all'azione. La verità è che non si fa politica senza organizzazione, e questo mito della partecipazione, delle discussioni online non sostituirà mai un modello organizzativo che è necessario per prendersi carico di una cosa complessa come la pubblica amministrazione. Comunque, figuriamoci comunque, a Roma. Tu stesso dici, quello stesso modello interpretato da persone che hanno però priorità chiara nella testa su cosa fare, a Torino funziona e lo ammettono tutti, non solo i 5 Stelle. Quindi a Torino funziona. Io non ho informazioni di prima mano, aspettiamo il bilancio, aspettiamo tutto, so che c'è con piccole schermaglie eccetera. Però, cioè, non è che perché da Torino non si leva un funghetto atomico va tutto bene, cioè c'è anche questo da dire, lo diceva esattamente ieri un mio caro amico che mi diceva che lui ha votato per Virginia Raggi perché lui è romano, e mi ha detto, vabbè, adesso però vediamo come va a finire, e però a Torino l'Appendino sta facendo bene, ha detto, non mi risulta, forse perché non ci sono state esplosioni nucleari. I risultati è ancora presto per dirlo, stiamo di metodo e di organizzazione, ma certo. Questi sono entrati, erano preparati, c'era un modello ben studiato, discutibilissimo dal mio punto di vista, non hanno sbagliato la bracciata appena buttati in piscina, assessori, capi di gabinetto. Ma torniamo a parlare allora del populismo. Parliamo delle soluzioni semplici a problemi complessi. Bravo. Allora, vogliamo essere stronzi fino in fondo. Cosa ci fa una laureata della Bocconi dentro il Movimento 5 Stelle? Perché? No, ma io sto seguendo la falsa riga del loro mainstream, no? Perché dicono il laureato della Bocconi. No, io non sto dicendo che dentro il Movimento 5 Stelle debbano andare solo analfabeti che promuovono, diciamo, i matrimoni. La tua era una domanda paradossale. No, ma esatto. Io sto semplicemente seguendo la loro argomentazione di base, il loro mainstream, visto che i laureati della Bocconi sono tutti servi della Spectre, del Bilderberg, sono degli organizzatori di complotti planetari per affamare le folle. Io dico, ragazzi del Movimento 5 Stelle, ma quando voi avete mandato la dottoressa Appendino a sindaco di Torino, la dissonanza cognitiva di questo evento non vi ha scossi, visto che voi vivete quotidianamente le dissonanze cognitive? Però non tutti, cioè, secondo me attento a non generalizzare, perché poi gli attivisti sono un conto, i voti sono altri. Sono troppi per essere tutti stupidi, Mario. No, esatto. E quindi me lo auguro. Però vedi che ancora una volta bisogna chiedere conto del metodo, perché scusa, sulle finalità della politica incide anche un dato esogeno, un po' di fortuna, un momento, ma qui manca il metodo. Se manca il metodo vuol dire che non ci sono le regole per stare insieme. Siccome sono d'accordo, infatti il editoriale di oggi sul Messaggero è nessuno ha ancora capito che se non hanno fin dall'inizio in mente uno che gestisca il bilancio di Roma, visto che è saltato Minenna, è saltato vanno a cercare o i ragionieri o i magistrati contabili. A Roma ci vuole un grandissimo esperto di turnaround pubblici, e quindi deve essere uno che conosce la macchina pubblica ma sa dove reindirizzarla, laddove c'è la massima concentrazione di inefficienza e mancanza di trasparenza in tutta Italia. Quindi c'è bisogno di un grande tecnico delle ristrutturazioni pubbliche, non di un magistrato contabile. E loro allo stato attuale non hanno ancora fatto nulla. Lo so, lo so, lo nulla, perché l'aspetto poi quando inizieranno le difficoltà, la spiegazione sempre nel solco populista è già pronta, ci stanno ostacolando. Però attenti, non trascuriamo, io apposta torno sulla cosa di De Luca, il fatto che se noi proponiamo un'analisi seria e la via organizzativa, attenti a, ci vogliono gente capace di capire che cos'è un bilancio pubblico per renderizzarlo e fare le scelte terrificanti che li devono fare sulle partecipate. Faccio notare a chi è in ascolto che hanno scelto un assessore che la sindaco per il momento difende all'ambiente, quindi col terribile problema di dover gestire il disastro dell'AMA, che ha nel curriculum, a me non interessa se è indagato o meno, ve lo dico subito, ma il curriculum della Muraro è costruita tutta con le imprese che vivono e fanno profitti della mancata chiusura del ciclo del trattamento industriale dei rifiuti a Roma, da Pordenone a Roma. Questo può essere una buona credenziale se uno pensa di voler avviare a chiusura invece il trattamento del ciclo industriale dei rifiuti a Roma, visto che a tonnellata costa a Roma 4 volte più che a Milano, eppure hanno scelto lei, e io infatti dico, boh, non ci capisco niente. Quello che vi dico io, e qui andiamo in chiusura perché poi andiamo a Gianfarelli, è di stare attenti anche al tono che queste cose prendono, perché se agli errori evidenti a Roma dei 5 Stelle la risposta è circense, invece che seria, noi ci perdiamo la serietà da tutte le parti nella scelta politica italiana. Diventa una scelta tra chi è capace di fare le migliori battute o peggiori battute, e la serietà che ci sta a cuore, caro Mario e caro Carlo Alberto, sparisce ulteriormente. Questo io lo vedo come un'enorme minaccia sul confronto pubblico italiano, e devo dire la verità, cari ascoltatori, riguarda anche voi, perché la qualità dei vostri interventi è diventata per moltissimi insulto, disprezzo, attacco personale, eccetera eccetera. Ragioniamo sempre meno, però alla fine vince chi urla di più, Mario. Può darsi, però è... poi arriva la realtà con un randello nodoso e ci picchia tutti qua. No, vabbè, così. Picchierà prima quelli delle soluzioni semplici a problemi complessi. Io non ho problemi. Io temo che spariranno prima quelli razionali, invece, perché quelli non ci comunque riescono. Comunque l'esperimento organizzato dal Movimento 5 Stelle è interessante, anche se sgangherato, e io dico che va sorvegliato con senso critico, non con offesa, esatto, diminuzione. Certo, vanno aiutati a prendersi però le proprie responsabilità, perché cioè, comunque hanno in mano l'amministrazione del capitale italiano. Che facciamo? Facciamo finta di niente? Attualmente sembra che lavorino pagati da Renzi. Cioè io se voi mi chiedete, Renzi si aspettava un simile fallimento, un simile autogol che è un assist per lui? La mia risposta è no, non poteva aspettarselo. Ecco, quindi speriamo che capiscano a Roma che hanno pochissimo tempo, ma rimediare sarà molto molto molto dura. Torniamo tra un minuto. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Eccoci qui tornati, caro compare Renato Cifarelli, come stai? Buongiorno. Allora, alcuni dei nostri ascoltatori vogliono sapere, ma in quale parte del mondo è al concerto del boss? No, io gliel'ho già detto, gliel'ho già scritto, no, chi l'ha chiesto. Non è a un concerto del boss. Sono al mare, mi sono messo anche in diretta Facebook questa mattina. Visto che c'hai gli altri due compari lì che continuano a stare sui social network, almeno mi vedono. Hai capito? Mentre vi faccio questa diretta. Ma tu sei andato al mare perché in realtà ad agosto hai lavorato, questo è... Sì, quest'anno abbiamo fatto un po' di operazioni straordinarie, quindi in agosto si lavora. Io posso solo dirvi questo, cari ascoltatori, che in un orizzonte italiano in cui le piccole imprese, anche le più dinamiche come quella di Renato, vengono spesso criticate perché non hanno nell'orizzonte la borsa, piuttosto si ammazzano piuttosto che immaginare crescita dimensionale per fusioni e acquisizioni, e loro invece hanno gettato le basi esattamente per venire meno a questo mantra negativo, e quindi si cresce con accordi. Poi alla fine il fine è anche quello di arrivare sul mercato finanziario. Si dicono sempre che le piccole imprese devono crescere, che devono fare accordi, che devono stringere alleanze, e noi l'abbiamo fatto. E noi su questo siamo molto molto molto contenti, perché finalmente ci scapperà per me un posto di autista. E intanto ti stiamo vedendo in diretta praticamente, ci stiamo vedendo su Facebook. è bel, sono in Italia, però in Sardegna. Sono in Italia. Senti un po', ma ed è anche l'ultimo giorno di vacanze, perché poi da lunedì e quindi però belle, siccome sei stato lì a pianificare la crescita della tua impresa, non hai messo la testa su almeno qualcosetta che non ti piace della pubblica amministrazione dello Stato italiano verso le imprese? No, ce l'ho una cosa, perché tanto sai che è una miniera inesauribile. Allora, a un mio amico è successo questo, di un'azienda che aveva trovato una persona che gli piaceva molto da assumere nella sua società. Che chiarisci, non erano le gambe e le tette? No. Era una signora, ma sicuramente credo non fossero le gambe e le tette. E solo che questa persona è separata e ha una figlia minorenne, e quindi doveva, per potersi trasferire, perché l'azienda era da un'altra parte, richiedere al giudice l'autorizzazione per trasferirsi. Io non sono un esperto di diritto matrimoniale e cose di questo genere, quindi non vorrei poi far delle figure ed essere sguardato. Ma invece cosa è successo? Che i giudici non hanno dato la risposta e comunque non hanno dato l'autorizzazione, quindi questa persona ha perso l'occasione di trovare un nuovo posto di lavoro, e l'azienda ha perso l'occasione di avere una persona che considerava ottima per la crescita aziendale. E poi parliamo sempre di soffitti di cristallo per le donne e cose di questo genere. E questo però è quello che poi nella strada succede alle aziende, quindi è quello che purtroppo ci troviamo ad affrontare giorno per giorno e È veramente la prima volta, e ti ringrazio proprio perché questa volta ci hai spiazzato, è la prima volta che non ho mai considerato l'impatto che può avere la pronuncia di un giudice sugli affidi rispetto alle carriere. Infatti è un problema. Io ci torno in un'altra mia trasmissione, adesso mi metto a studiarla meglio la faccenda. Grazie Renato, anche perché questo ci ha dato anche un segno di attenzione alle donne che oggi avevamo trascurato. Comunque, cari ascoltatori, siamo solo all'inizio, alla ripresa del nostro ciclo di trasmissione tutti i sabati, e però l'appuntamento con me è lunedì mattina alle 8:20 con la Tintero 2. Torna Lino Milan.